Europa 24. Cari amici, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti al nuovo appuntamento con l'Europa. Oggi vi segnalo soprattutto la partenza dei bandi UE per la ricerca, sono oltre 70 miliardi di euro. Prima però, tema assolutamente legato, parliamo di fondi strutturali, 31 miliardi di euro per il governo italiano, dal bilancio dell'Unione Europea e l'Italia si muove e sceglie di concentrare le risorse. Sentiamo. Dopo mesi di rinvii, il governo ha finalmente inviato alla Commissione Europea la bozza di accordo di partenariato per la gestione degli oltre 31 miliardi di euro di fondi strutturali assegnati all'Italia per i prossimi 7 anni. Seguendo anche le indicazioni di Bruxelles, il ministro della coesione territoriale Trigilia ha concentrato i 31 miliardi destinati all'Italia su pochi obiettivi, secondo il principio meglio fare poche cose ma farle bene. Il cofinanziamento nazionale raddoppierà la disponibilità di risorse che per 2/3 vanno alle regioni meno sviluppate. La scelta di fondo è di utilizzare queste risorse per contribuire a superare la crisi più pesante degli ultimi 60 anni. Internazionalizzazione, innovazione, digitalizzazione, beni culturali e ambiente, istruzione, capitale umano e lotta alla povertà sono gli obiettivi strategici definiti nel documento che dà priorità alle piccole e medie imprese e al lavoro e che potranno contare su quasi 9 miliardi di euro. L'altra innovazione importante, mal digerita dalle regioni ma ben vista a Bruxelles, è l'istituzione di un'agenzia nazionale con funzioni di monitoraggio e controllo sulle regioni. Ora serve il via libera della Commissione per poter avviare prima possibile la nuova programmazione, limitando al minimo i ritardi iniziali, come è sempre accaduto in passato, senza poi riuscire a recuperare. Anche perché la corsa ai finanziamenti diretti è già iniziata oggi con i bandi della prima tranche del programma Horizon 2020, dedicato alla ricerca e all'innovazione, in particolare delle PMI. Giuseppe Chiellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I bandi europei, dunque, come vi ho accennato, oltre 70 miliardi rivolti all'università, ma anche alle piccole e medie imprese, ai ricercatori individuali. Allora, Alessandra Lucchetti, Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea, ci spiega i dettagli. Oggi, appunto, lanciamo i primi bandi. Sono 64 bandi che coprono vari settori, quindi abbiamo la formazione dei ricercatori, abbiamo quelli che chiamiamo le sfide sociali, salute, agricoltura, bioeconomia, trasporti, energia, e si accede, adesso la faccio veloce, si accede attraverso il Participant Portal, che è un sistema online dove si trovano tutte le informazioni, metto la parola chiave e avrò tutti quei bandi che sono aperti e che fanno riferimento, che contengono questa parola chiave. Quindi, diciamo, è un sistema intelligente per aiutare i ricercatori e coloro che comunque si vogliono, le organizzazioni di ricerca e anche non, perché noi parliamo anche di sostegno alle piccole e medie imprese, che vogliono partecipare al progetto. E quindi tutte le informazioni sono lì, come presentare la proposta, il programma di lavoro. Per quanto, per esempio, adesso io mi occupo di formazione e mobilità dei ricercatori, nel nostro caso abbiamo anche quelle che chiamiamo la guide for applicant, cioè la linea guida per coloro che vogliono presentarsi, dando effettivamente spiegazioni precise su come presentare la domanda, quali sono le informazioni che sono richieste. Ecco, siccome i siti dell'Unione Europea, non solo, ma di certo quelli dell'Unione, sono complicatissimi, ec.europa.eu/research/participant, eccetera, eccetera, vi segnalo invece che potete trovare tutti i dettagli per accedere ai bandi europei sul sito di Radio 24, www.radio24.it, molto più facile. E ora è arrivato, dopo mesi di discussione, l'accordo tra i 28 ministri del lavoro dell'Unione che impedisce il dumping sociale a spese dei lavoratori distaccati in servizio. Giro di vite dell'Unione Europea sul fenomeno del dumping sociale, la discriminazione salariale e assistenziale di cui sono spesso vittime i posted workers, i lavoratori distaccati. Dopo mesi di discussioni tra i 28 ministri del lavoro dell'Unione è stata raggiunta un'intesa che permette un maggior controllo sul rispetto dei salari minimi e sulle frodi dei contributi sociali. previste nuove restrizioni e una definizione più certa delle responsabilità in caso di abusi anche a carico delle aziende appaltatrici. Il dibattito ha spaccato l'unione tra vecchi e nuovi paesi membri. Da questi ultimi, infatti, provengono molti dei lavoratori distaccati. In totale sono 1,5 milioni in Europa. L'intesa, che dovrà ora essere approvata dal Parlamento europeo, giunge in un momento in cui in molti paesi, in un contesto di welfare costoso e disoccupazione elevata, cresce il timore di un aumento dell'immigrazione. Un momento in cui, hanno sottolineato in molti, bisogna evitare l'uso improprio della libera circolazione dei lavoratori e la concorrenza sleale. Ai microfoni di Euronet Plus, l'europarlamentare Daniel Cohn-Bendit respinge però la tesi di un uso elettorale da parte francese, ad esempio, della questione. Non credo che sia troppo semplice. Questa spiegazione, dice, è troppo semplicistica. I lavoratori distaccati pongono un problema reale, sono un magnete per il dumping, rendono incerta la protezione sociale, creano distorsioni nel mercato del lavoro. È normale che siano regolati meglio. Infatti, il tema è stato cavalcato sia dalla destra che dalla sinistra estreme. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, vi lascio naturalmente allo sport. Appuntamento con l'Europa domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.